L'allegoria. Scrive Giancarlo Rinaldi, docente di storia religiosa dell'Oriente cristiano ed antropologia delle religioni presso l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, Cristianesimi GBU. Il cristianesimo non è una religione del libro, poiché il suo centro ed il suo fondamento è la persona di Gesù. Tuttavia non si dà cristianesimo senza la scrittura. A buon diritto, dunque. È stato affermato che la teologia degli antichi cristiani viene a coincidere con la loro lettura della Bibbia. La storia della teologia è un tutt'uno con la storia dell'esegesi biblica. I primi seguaci di Gesù erano giudei e iniziarono a leggere le scritture così come avveniva nella tradizione giudaica. Aspetto principale di questa lettura era il suo carattere attualizzante. Il testo veniva letto e interrogato non con la prevalente curiosità erudita di accettare cosa avesse significato in origine, bensì al fine di conoscere cosa esso affermava e svelava in riferimento al momento contemporaneo e al futuro. Quando dal secondo secolo in poi i cristiani si allontanarono sempre più dal ceppo giudaico per relazionarsi e integrarsi con il mondo della cultura ellenistico-romana, anche il loro modo di leggere la Bibbia risentì di questo mutamento. Questa ellenizzazione non era tuttavia nuova. Ad Alessandria d'Egitto, un contemporaneo di Gesù, Filone, aveva tentato di armonizzare i dati dell'Antico Testamento con la tradizione filosofica del platonismo. Questo indirizzo si basa sulla divisione della realtà in due livelli, mondo delle idee e mondo sensibile. Anche la maniera di intendere le scritture ricalcava questo dualismo, da un lato il suo significato immediato, letterale, dall'altro una significazione più profonda e più vera, nascosta nel testo, allegoria. Tra i cristiani, il più profondo e brillante utilizzatore del metodo allegorico fu Origene, 185-254, attivo di Alessandria. Tag 546. In poche righe, Giancarlo Rinaldi ha tracciato la genesi di uno dei più deleteri metodi di lettura della Bibbia, l'allegoria, citando anche i grandi responsabili di tale arte, cioè Filone di Alessandria e Origine. Non che sia sbagliata l'allegoria in sé. Paolo stesso infatti riconobbe che le due mogli di Abramo avevano un senso anche allegorico, Galati 4.2.4. Ma quando l'allegoria diventa una scappatoia per non dire ciò che il testo asserisce, o per nasconderlo, è bene prendere la parte di Diodoro di Tarso, considerato a buon diritto il padre della tendenza esegetica antiochena, comunemente definita letteralista, Pag. 737, il quale prese le distanze dalle tendenze cristologiche allegoriche prevalenti dell'Occidente bizantino. L'allegoria, cos, è, com'è, perché nasce. Il termine allegoria deriva da un verbo greco che significa parlo per immagini. L'allegorismo è una metodologia esegetica tipica della cultura alessandrina. Essa nacque a proposito dell'interpretazione dei poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea, i quali spesso intenzionalmente raffigurarono gli dèi in preda a sentimenti umani come la collera, l'invidia, l'ira, eccetera. Primo a interpretare in chiave allegorica questi poemi è stato Teagene di Reggio, Sita pus haesec avanti Cristo, al quale si associarono in seguito Democrito, Prodico, Crizia, l'Epicureo, Metrodoro, di Lampsaco Crisache. Anche le scritture giudaiche presentavano non pochi passi apparentemente inammissibili al lettore dotato di cultura filosofica. Si pensi ad esempio agli antropomorfismi con i quali Dio viene descritto così come alla sua ira, oppure alla lunga serie di stragi che corredano la storia dell'Israele più antico. Ma alla luce di una sensibilità più evoluta, gli antropomorfismi, come in generale quasi tutte le narrazioni dei miti antichi, non risultavano più moralmente umani. Perciò si trovò opportuno ricorrere ad una loro interpretazione allegorica, secondo la quale il significato vero del testo non era quello suggerito dalla sua lettura immediata, cioè letterale, ma era diverso e più profondo. Pertanto, parlare in termini allegorici significava dire qualcosa, MAVOLEERN, e significare un'altra, che in realtà si svuota del suo contenuto letterale. Dei primi cenni di esegesi allegorica, applicata alle scritture giudaiche, si riscontrano già nell'epistola di Aristea, dove si dice che Mosè, nel distinguere bestie pure e bestie impure, LV 11.28, ha seguito un metodo figurativo. Vi è pure Aristubolo, 181-145 a.C., autore giudeo-alessandrino, il quale per primo fece esplicito ricorso all'allegorismo per non cadere preda degli antropomorfismi ricorrenti nelle scritture, affinché fossero meglio comprese. Pag 175-176. Da questi eventi è evidente che l'allegoria è nata con lo scopo di voler spiegare quello che non si capiva e non era moralmente accettabile, ma non per comprendere meglio ciò che era scritto. Anzi, come dice Alfred Quinn, l'interpretazione allegorica ci dice molto bene ciò che l'interprete pensa, ma non dice niente di ciò che l'autore biblico volesse dire. E, interessante rilevare che per gli intellettuali pagani era inammissibile la lettura allegorica delle scritture, anche se questa chiave interpretativa era tuttavia da loro ampiamente adoperata, ma non per testi scadenti e dallo stile dimesso come appunto la Bibbia sembrava loro, sebbene fossero consapevoli dell'importanza che le scritture rivestivano per gli ebrei e i cristiani. Pag 433. Che la Bibbia contenga vari generi letterali è fuori discussione, per cui sarebbe assurdo negarne l'aspetto allegorico. Ma il vero problema non consiste nell'allegoria, piuttosto nell'arrivare a dire qualcosa per volerne significare un'altra. Per evitare questo errore è necessario non allontanarsi mai dal dato letterale perché, come è risaputo, l'allegoria è tratta da un evento avvenuto veramente. Quando Paolo disse che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva e uno dalla libera, e che queste cose avevano un senso allegorico, perché queste due donne rappresentano due differenti patti, non stava dicendo tutta un'altra cosa, ma faceva presente una ulteriore verità soggiacente a quella letterale. Abramo ha avuto letteralmente due mogli, fatto questo che può dare adito ad una interpretazione allegorica. Così l'errore di Filone di Origene e di tutti i seguaci della scuola allegoristica sta nell'insistenza a ricercare e voler spiegare sensi nascosti della scrittura, al fine ultimo di celare, se non di annullare addirittura il dato immediato, storico e letterale. Anche se sembra strano, le vittime dell'allegoria sono in prima linea i traduttori dei testi ebraici. Come scrive Rinaldi, il fiorire della letteratura giudaica di lingua greca fu stimolato da tre esigenze. 1. Religiosa. Fornire materiale edificante ai membri della comunità della diaspora. 2. Apologetica. Difendere il giudaismo da un coacervo di accuse. 3. Proselitistica. Presentare la religione del popolo dell'Antico Testamento in termini accettabili all'uomo di cultura greca. E proprio quest'ultimo obiettivo che ha fatto naufragare le letteralità. Che si faccia di tutto per farsi capire, questo è lodevole e da incoraggiare, ma che per farsi accettare si debba travisare la realtà o addirittura cambiare il testo originale, questa è una mancanza costata cara. Prendiamo come esempio il testo della versione dei 70, quale prodotto di mediazione culturale, tradotto dall'ebraico circa 250 anni prima di Cristo. Essa traduce sì il testo, ma nello stesso tempo interpreta e adegua le asperità del testo giudaico, che apparivano intrinsecamente inaccettabili per il lettore di cultura greca. Un movente, certamente onorevole, ma né utile né edificante, al punto che il giudaismo del secondo secolo rigetterà questa traduzione esecrandola e sostituendola con altre traduzioni greche, pure composte da giudei. Pag 172. Dobbiamo riconoscere che il passaggio da un codice linguistico a un altro richiede operazioni lessicali e semantiche molto complesse, entro le quali non tutto trova risposta adeguata. Ma vi è una problematica specifica e di radicale importanza che è stata ignorata, forse anche volutamente. Si tratta della traduzione. Non a caso, certe Bibbie mettono in guardia il lettore di distinguere questi nomi ebraici, ma sarebbe stato più saggio non tradurli in altre lingue, perché con la traduzione si è perso troppo del pensiero ebraico. Forse qualcuno penserà che non sia l'allegoria la causa, ma i traduttori sono vittime di questa malattia più di quanto non si possa pensare. Facciamo due esempi. La Nuova Riveduta traduce così. Il testo di 1 Corinzi 10, 9. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. La Nuova Diodati, invece, fedele al testo greco, rende in non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Tradurre Signore al posto di Cristo induce il lettore ad avere un'idea vaga di Dio, mentre tradurre Cristo fa comprendere che gli ebrei nel deserto tentarono proprio la persona di Cristo e non tanto Dio inteso nella sua pluralità. Perché questa differenza? Molto probabilmente il traduttore aveva grosse difficoltà a credere alla presenza corporea di Cristo nell'Antico Patto e ha preferito allegorizzare il tutto, impiegando la parola Dio. Stessa cosa anche per quanto concerne un'affermazione dell'Apostolo Giuda nella sua lettera. Or voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Giuda 5. I testi più antichi del V e V secolo al posto di Signore portavano scritto Gesù, Cristo, Dio Cristo, una tesi questa, attestata anche dal noto studioso F. Vellafe Bruce, 1910-1991, professore di critica biblica ed esegesi in Gesù ieri, oggi e domani, dove si legge. Questa parve una dichiarazione tanto straordinaria a molti dei primi editori e copisti del Nuovo Patto che sostituirono Gesù con il Signore o con Dio o semplicemente con Egli. I codici Vaticano e Alessandrino e molte versioni antiche rendono Gesù salvò il popolo dall'Egitto. Queste versioni mettono in evidenza che fu Cristo a salvare il popolo di Israele dall'Egitto e non un vago Signore. Dobbiamo prendere sul serio queste valutazioni addotte da persone che hanno speso la loro vita per lo studio delle Scritture. Nel libro del Deuteronomio 4:37, nella Nuova Diodati, leggiamo: «Ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza». Mentre nella Nuova Riveduta sta scritto, egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto. Una lettura del genere produce nella mente di chi legge una chiarezza inconfutabile della reale presenza corporea di Cristo al tempo dell'Esodo, e chi non ci crede è obbligato ad usare ragionamenti allegorici. Ecco perché l'allegoria è estremamente pericolosa e deleteria. L'unico modo perché possa essere utile a chi interpreta il testo sacro è innanzitutto specificarne il senso letterale. E, solo dopo, una saggia e onesta applicazione allegorica potrà essere benefica e edificante. Marzo 2011. Ellero,